o un semplice provolone di treno, o uno stupidotto di paese che pensava di poter fare in quel momento il grande colpo della sua vita. Lei fatalmente lo mise a posto in un istante. Lui si alzò e cambiò subito scompartimento. Una vera professionista, me ne ero accorto subito, che era una che la sapeva lunga. Ti accorgi quando viaggi in treno delle persone? Certo. E da cosa si vede? A volte si sentono anche telefonate di persone che magari parlano con l'amante. E cosa dicono? Ci incontriamo dopo, oppure... Appuntamenti clandestini. Appuntamenti clandestini, c'è anche chi ha l'amante in treno. E stanno seduti vicini? Stanno seduti vicini, si tengono la mano, effusioni. E non hanno paura e poi magari qualcuno li incontri per strada, al paese, con l'altro partner. E vabbè, questo è normale. Sì. Ma qualcuno dice sto arrivando a Milano, invece l'altro parlante dice stazione di Bologna, cose del genere. Mi è capitato di sentire una persona, un uomo, stranamente un uomo, telefonare alla moglie e dire... no, il treno è in ritardissimo, non so a che ora arrivo a casa. E nel frattempo aveva conosciuto una persona in treno, si sarebbe fermato a Bologna. E qui proprio Bologna, la città. Vabbè, il treno, diciamo, è il luogo adatto per amori clandestini, no? C'è tutto sì, il tempo anche che per vuoi. Incontri, si incontrano persone, si parla, si chiacchiera, a volte nascono amicizie, a volte sono incontri fugaci. Senti, ma il treno è anche il luogo delle scuse, degli inganni. Gli inganni che si può simulare benissimo di essere da un'altra parte, a meno che non parla l'altoparlante. Gli inganni anche quando uno si trova preso, che magari non ha il biglietto, ha il biglietto sbagliato. Ah, cosa certo. Si inventano in quel caso? Beh, le scuse che si sentono sono le più varie. Ad esempio? Ad esempio, dipende anche dalla tipologia di treno. C'è chi magari arriva trafelato e dice ah, non ho fatto in tempo, ero in ritardo, sono uscito tardi dal lavoro, devo rientrare entro sera, magari ci può anche stare, ci può anche stare, sì. C'è anche chi invece si inventa le scuse più assurde, ah, devo rientrare assolutamente a casa, mi è morta la mamma, mi è morta la nonna. Ma il problema è per non pagare la sovratassa per il biglietto. Ma per non pagare nemmeno il biglietto. Ah, nemmeno il biglietto. Ci sono ancora persone che vanno in treno senza biglietto. Parecchie. Ci provano. C'è anche chi addirittura dice mi è caduto dentro il bocchettone dell'aria condizionata. Sì, addirittura. Si chiude ancora la gente in gabinetto per quando passa il controllore? Sì, assolutamente. Ai ragazzini soprattutto. Beh, nei treni più piccoli, diciamo, questo accade. Sì, treni da pendolari, insomma. Ma nei treni importanti mai, penso, no? Non credo. Difficile. Nei treni dei pendolari capita, però, soprattutto i ragazzini che vedono il controllore, dai, scappiamo o in fondo al treno o nei bagni. Insomma. Quindi c'è un grande inseguimento. Sì. No, sono scene molto carine da vedere. Sì, il controllore corre dietro. No, proprio corre, no. Però, insomma, chiaro che se ne accorge. Non ho mai capito cosa succede poi alla fine. Sono dice, non pago il biglietto e non ho i soldi. Non ho mai visto scene di persone, non so, buttate dal finestrino. Cosa accade in quel caso? Mi è capitato di vedere a volte magari la polizia intervenire, ma può essere che fossero casi... Casi estremi. Estremi, esatto. Ti è capitato mai di vedere cose singolari, strane, da raccontare, delle avventure da treno che meritano di essere raccontate? Tu che viaggi molto. Avventure carine anche, ho viaggiato anche l'ultimo dell'anno su un treno che andava a Vienna ed è stato molto bello perché sembrava un'anticipazione della festa. Tutte le persone anche che non si conoscevano con le chitarre, gli spumanti, a cantare. E quando arrivava il treno? Proprio a Capodanno? Arrivava l'ultimo dell'anno a Vienna e il giorno dopo magari chi rientrava era carino, perché magari chi era andato a fare Capodanno a Vienna era carino vedere il treno di ritorno invece in cui tutti si dormivano. Quindi proprio la era un viaggio economico, nemmeno una notte a Vienna passavano, andavano esatto. Al veglione, festeggiavano e rimontavano in treno. Festeggiavano già in treno e poi dormivano in treno al ritorno. Una cosa fantoziana però. Però molto singolare, molto carina. Ormai è qualche settimana che faccio questo viaggio raccontato alla radio. Mi sono arrivati racconti dei più impossibili, gente che in treno pare faccia di tutto. Consumi amori clandestini, consumi passioni inesauribili. Ti è mai capitato di vedere o aver sentore di cose del genere? Il treno come alcova? Mi è capitato una volta sola. E cos'è? Com'è accaduto? In realtà stavo semplicemente prendendo posto dentro un compartimento che era chiuso. Con le tendine? Con le tendine. Ah, quelle di vecchio tipo, diciamo. Esatto. Ho aperto la porta. E come stavano? Stavano mezzi nudi. Dentro lì? Io ho richiuso in fretta. Ma come immaginavano che nessuno li scoprisse? Non che ora so. Era, ti ricordi? mattina, penso, perché io ero pendolare. Quindi avevano viaggiato la notte? O la mattina prima di me, non lo era so. Una ripresina o era l'inizio, secondo te? Non ho avuto il tempo di controllare, quando li ho visti sotto sopra ho richiuso. È chiuso e sei andata via, e loro non hanno detto nulla? No, credo che si siano ricomposti. Vabbè, perché dopo era aperto il... È sede che gli scappava proprio, non potevano trattenerla, e questo capisco. Te mai subito attenzioni, diciamo, immodeste nel tuo tanto viaggiare, visto che sei particolarmente avvenente? Attenzioni sempre delicate. Delicate? Delicate, sì. Ma io... di telefono. In realtà ho conosciuto un ragazzo che faceva sempre la mia tratta pendolare di lunga percorrenza, insomma, quando rientro a casa dai miei genitori, e con lui ci siamo scambiati il numero di telefono, una chiacchiera. Lui vi faceva... siete anche fidanzati? No. No, però avevamo preso l'abitudine spesso di rientrare insieme il venerdì. Beh, questo è interessante. Guardare il film magari durante il viaggio, fare la chiacchiera, scambiarsi dai sui libri. È un'amicizia limitata allo spazio del treno. Sì, esatto. E beh, come fosse un mondo parallelo. Sì, sì, sì, è un piccolo e poi mondo. Ognuno rientrava nel suo mondo. Sì, poi ognuno arrivava a casa e la settimana magari successiva si rientrava, ci si dava appuntamento sullo stesso treno, si prendeva il posto accanto e si facevano 2 ore di chiacchiere. Quindi avevate una vostra dimensione particolare in cui sì, vi incontravate. Finché, esatto. E perché è finita poi? Perché ha smesso di fare trasferte, quindi... E tu non l'hai più cercato? No, ci sentiamo al telefono, un messaggio, però niente di... Poi non ci sono, diciamo, i due binari non si sono mai incrociati? Non si sono più incrociati. Vabbè. Un tuo giudizio sull'umanità maschile che viaggia in treno, gli uomini soli. Prima l'hai accennato, i marpioni che usano il treno come alcova o come luogo di conquista o come scambio verso dimensioni parallele dell'infingardaggine con gli ungali e via dicendo. Ma il maschio che viaggia in treno, il maschio solo, come lo giudichi? Beh, ce ne sono di diversi tipi, chiaramente. Diamo non qualche che tipologia, si può generalizzare. Diamo qualche tipologia. Come anche le donne. Vediamo, sarai fatta delle categorie, no? Certo, c'è chi viaggia con la testa nel computer, che vive per lavorare, deve finire tutti. Quindi è una propaggine del lavoro il esatto. treno, fine. C'è poi. Chi invece viaggia rilassato, leggendo, guardandosi un film o guardando il paesaggio e quindi magari è assorto nel suo mondo. C'è chi usa il treno per le telefonate e per... far rientrare magari tutto quello che non è riuscito a far rientrare nella giornata frenetica. Sono quelli che hanno le segretarie, la mamma, la nonna, i colleghi, che sai tutto di loro, si sa tutto. Esatto, ma soprattutto della vita familiare. Se facessi la spia industriale in queste settimane ho saputo informazioni riservatissime, non so su quante aziende. Tutto, le transazioni, i licenziamenti, le assunzioni, i cambi di incarico, tutto al telefono. Sì, sì, capita spesso. Ma danno anche telefoni, danno anche gli indirizzi, nomi, cognomi. Sì, sì. Mi è capitato anche di sentire dettare un articolo di giornale al telefono in treno una volta. Beh, uno che ancora detta articoli fa parte di una generazione di giornalisti molto antiquata. Però chi è che detta più è capitato, ma di recente tra l'altro. Sì, sì, sì, molto di recente. Non poteva scriverselo sul suo tablet e mandarlo, no? Vabbè, probabilmente poi, non era equipaggiata. O forse la far sentire a tutti gli altri che era un grande giornalista. Può essere, sì, può essere anche questa c'è. Seconda... C'è l'ostentazione del ruolo in treno, no? Sì, sì, sì. Poi altri uomini. E poi ci sono quelli che approfittano del viaggio per approcciare. Capita. È considerata una sorta di riserva di caccia. E invece le donne? Qualche tipologia femminile? Ma anche le donne, quelle in carriera. Io odio quelle che si levano le scarpe e appoggiano i piedi sul sedile di fronte. Anche con le scarpe. Anche con le scarpe? Sì. In quel caso cosa dici se tu lo vedi? Li togli? Beh sì, se possibilmente, insomma, magari sono proprio lì accanto, non è carino. Quelle che mangiano? Ma mangiare in treno capita anche a me. Sì. Ma dipende. Dipende, tu mangi un panino discreto, no, e tiri fuori una frittata, esatto, con le cipolle, cambia. Infatti anche i treni sono carini anche per questo, anche i treni notte arrivano le persone con le buste, panino col salame, magari salame all'aglio. Certo, è chiaro. Le migliori mangiate proprio da film. Treno va. La viaggiatrice professionista mi ha fatto riflettere su un particolare che non avevo mai considerato, perlomeno, che non ho mai considerato negli ultimi 30 anni della mia vita, che il treno potrebbe anche rappresentare una formidabile alcova per incontri clandestini, per incontri fugaci o per tentazioni che ti colgono all'improvviso. Io vengo da una generazione di persone per cui il luogo dell'incontro amoroso era una ricerca affannosa, soprattutto nei primi anni di vita. Non c'erano le seconde case, non c'erano le case ampie dei genitori, non c'erano i posti dove portare le ragazze o dove portare i ragazzi, a seconda del punto di vista a cui si pone questo problema. E quindi c'erano le alcove improvvisate, c'erano i garage trasformati in clubbini apparentemente per ascoltare musica, ma in realtà per approfondire conoscenze. C'erano gli amici generosi che offrivano parte della loro casa, c'erano le piccole e sempre troppo brevi uscite di casa dei genitori, e poi c'era l'improvvisazione, poi c'era la fantasia, poi c'era la ricerca disperata di luoghi furtivi per amori fugaci. Oggi sembra quasi assurdo, ma fino a qualche decennio fa il congresso carnale, pre o extramatrimoniale, ha richiesto eroico ingegno e fervida fantasia per poter essere consumato. I luoghi fatati dell'acrobazia canicolare esigevano spirito di adattamento e notevoli qualità ginniche. In una ricca varietà di film di genere eravamo intrisi di favolistica rivierasca, dove spesso si narravano i misteri del sesso da stabilimento senza mai entrare nei particolari tecnici. La villeggiatura più classica durante gli anni del boom era galeotta per una speculare occasione adulterina. Ecco i luoghi della fornicazione balneare per un incontro fugace e conclusivo dopo il lento sulla rotonda sul mare, il martini dry o il gelato affogato allo strega. Ci si dileguava nel buio complice degli stabilimenti. Il lettino pieghevole sulla spiaggia era utile per i primi avvicinamenti con sottofondo di risacca, ma per l'affondo finale occorreva un rifugio più intimo. Si passava quindi in cabina. Occorreva agilità e maestria per usare al meglio i pochi accessori a disposizione. Una panchetta, una sedia, una mensola, un materassino appoggiato alla parete. Ricordo un vanaglorioso e attempato zittellone che elaborò un suo personale Kama Sutra da cabina. Cito a memoria alcuni dei nomi che coniò per le posizioni dell'amore: pretoriana, francescana, forbice, rinterzo e l'intraducibile snaccabrion, che non ho mai capito cosa significasse. Queste vicende non ebbi il tempo di viverle completamente in prima persona, ma fecero parte della mia educazione sentimentale perché ne udii parlare in più occasioni e con particolare ricorrenza. Erano il succo delle facezie di addetti ad una pompa di benzina con i quali dividevo le fatiche per guadagnarmi decorose vacanze estive. Chi restava in città poteva comunque sfruttare la benevolenza del clima estivo per avventure corsare. A tal scopo, il possesso di un mezzo di locomozione corrispondeva negli stessi anni alla conquista della più efficiente protesi erotica. Muoversi in velocità significava delocalizzare la consumazione sessuale rispetto alle aree di maggior controllo. Ancor prima dell'utilitaria, questa funzione fu impropriamente adibito lo scooter. I primi modem con il motore a sospensione elastica, il galletto della Guzzi, la lambretta a due volumi erano perfetti per l'immediato teletrasporto dal luogo della pudicizia a quello dello scatenamento sensuale. La disponibilità del pilota a tale pruriginosa applicazione era segnalata da un accessorio apparentemente innocuo, ma che nel linguaggio segreto delle più ipocrite morigeratezze suonava lubrico come l'esposizione in vereconda della gloria itifallica di un satiro boschivo. Si trattava di un semplice plaid scozzese. Nulla di più che una copertina arrotolata, piegata con cura e sistemata sul sellino con un paio di lacci di gomma, quelli che si usavano a scuola per tenere assieme i libri. Nemmeno di lana, spesso in acrilico o altri succedanei di gran voga per le loro caratteristiche di robustezza, di tenuta alle macchie. Beh, quella copertina idrorepellente era il segnale che nulla sarebbe mancato nel momento dell'estrema bisogna. Impenetrabile al rovo, allo scarafaggio, all'erba e all'umidità, si sarebbe spiegata gloriosa sul praticello dell'amore. Poi le cose migliorarono. Arrivò la 600, la 500 e il Mario Tanzi, inventore di Fidenza, che brevettò i sedili ribaltabili. Chi non se li poteva permettere di fabbrica ricorreva a meccanici complici che per pochi soldi facevano la modifica per trasformare l'utilitaria in alcova semovente. I sedili ribaltabili furono il congegno che determinò il più alto tasso di perdita del pulcellaggio e dell'onore coniugale nei 30 anni successivi. Inoltre rappresentarono un formidabile stimolatore tecnologico per gravidanze non programmate. Sebbene fossero anni oscuri, a nessuno venne in mente di indire un referendum per abrogarli. Ciao, io sono Giovanna, sono di Napoli e ho 33 anni, sono un'insegnante e quest'estate mi è capitata una cosa particolare perché, niente, facendo molto caldo ero spesso affacciata alla finestra. Io abito in un palazzo di 3 piani e di fronte al mio palazzo c'è un commissariato di polizia e quest'estate quindi stavamo spesso io e le mie compagne affacciate alla finestra e molto spesso mi ritrovavo anche da sola magari a fumare una sigaretta, a chiacchierare al telefono con le amiche. Ho incominciato a notare che di fronte alla mia finestra c'era una finestra che dava in un ufficio in cui c'era un poliziotto che stava spesso lì e anche lui spesso incominciava ad affacciarsi alla finestra. E a un certo punto abbiamo incominciato a guardarci. I primi tempi è stato soltanto un gioco di sguardi. All'inizio io ero abbastanza imbarazzata dallo sguardo di questa persona e quindi spesso distoglievo io lo sguardo per prima. Poi anche un po' divertita perché naturalmente io provengo da un ambiente sociale totalmente diverso perché sono frequentatrice di centri sociali, quindi ho cominciato a sorridere, a reggere lo sguardo di questo uomo. Mi ha colpito un po' tutta la vicenda, cioè il fatto che appunto fosse un poliziotto mi incuriosiva, mi divertiva anche che una persona comunque nella sua, diciamo, nel suo ambiente lavorativo poi usasse comunque flirtare con una vicina di palazzo, ecco. Lui a un certo punto, scioccandomi, mi ha chiesto il numero di telefono, gesticolando, chiedendomi se ci potevamo vedere per un caffè e se gli lasciavo il numero di telefono. Io non sentivo la sua voce, né lui tantomeno poteva sentire la mia. Quindi io prendo un pennarello, prendo un foglio A4 e scrivo in caratteri molto grandi il mio numero di telefono, che temevo che oltre ad averlo preso lui poteva averlo preso insomma qualsiasi altra persona che si potesse in quel momento affacciare alla finestra. Ci vediamo per un caffè e lì naturalmente lui è molto più grande di me, mi aspettavo una persona totalmente diversa, mi aspettavo anche uno borioso, non lo so, quindi a questo incontro ne sono seguiti altri, naturalmente la relazione poi ha preso una piega diversa, cioè siamo diventati amanti. Ho subito sentito una forte sintonia sessuale con quest'uomo e anche lui da parte sua, ma soprattutto la cosa straordinaria era che la nostra intimità, pur essendo due estranei, ci sembrava di conoscerci da tanto tempo. Lui non sempre mi rispondeva e non ci vedevamo mai durante il fine settimana. Quindi dopodiché io mi sono fatta delle domande e ho chiesto delle spiegazioni e lui mi ha confermato appunto che era una persona che conviveva da tempo con un'altra donna, che era comunque legato in qualche modo a questa sua compagna, che questa cosa con me era nata così in maniera irrazionale e che anche lui si era lasciato prendere la mano senza rendersi conto in realtà di quello che stava succedendo, no? Io naturalmente dopo questa rivelazione decido di interrompere la relazione e nel momento in cui insomma interrompo la relazione naturalmente il distacco è stato abbastanza doloroso sia per me che per lui. Sono arrivate le vacanze estive, quindi io me ne sono andata dalla città sperando anche di lasciarmi alle spalle questa cosa. Quando sono rientrata la sua finestra era chiusa e quindi questa cosa l'ho vista un po' come un segnale, non lo so, trovarmi questa finestra chiusa era anche un po' un simbolo della chiusura del nostro rapporto. Da quando ci siamo abituati ad usare i sistemi operativi a prova di imbecille, quindi più o meno dal 1995, abbiamo una percezione molto particolare delle finestre. Le finestre molto facilmente si aprono, si chiudono, si minimizzano, quindi anche nella storia di questa leggiadra professoressa di liceo, molto di sinistra, molto perbenista, che si è lasciata andare dal rude uomo di guerra, dal poliziotto che la sbatteva e le faceva sentire qualcosa probabilmente nemmeno immaginava che esistesse, tanto da poter dimenticare il fatto che quello era per lei e per lui soltanto un sollazzo amoroso, senza nessun progetto di vita, senza nessuna giustificazione sociale amorosa. Beh, anche per lei la finestra, naturalmente, una volta chiusa, è stato molto facile che si riaprisse. Poi invece è successo che una mattina mi sono svegliata, la prima cosa che faccio naturalmente è aprire la finestra, le tende, e me lo sono trovato di fronte affacciato con un sorriso a 36 denti. E da lì abbiamo iniziato a frequentarci, abbiamo capito che non eravamo in grado di stare lontano l'uno dall'altra. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri che nella carrozza 8 è attivo il servizio di ristorazione. Mi capita in treno di vedere molto spesso donne che lavorano. Le donne impegnate, le donne professioniste, le donne che portano le stesse borse che portano gli uomini. Sono borse che contengono laptop, sono borse che contengono cartelle, sono borse che contengono gli strumenti del lavoro. È gioco forza pensare, in un luogo comune ormai troppo accreditato, che le donne che non lavorano sono quelle perché hanno impossibilità di lavorare, perché sono dedicate alla famiglia, come ci fosse questo binomio inesauribile che la donna fa la mamma, o fa la moglie, o fa la donna lavoratrice. E il luogo comune è ancora più rinforzato dal fatto che siano i figli il vero ostacolo al lavoro della donna. Sai, non mi sono potuta realizzare professionalmente perché ho fatto i figli, ho allevato i figli. Invece non è vero. L'ostacolo non sono i figli, sono stati fatti degli studi molto approfonditi che sono stati riportati recentemente anche dal New York Times in una lettura divulgativa, dove una sociologa di una università americana ha fatto un'analisi di tutti i dati registrati dal 78 al 2006 in riguardo al salario degli uomini e delle donne, e ha visto che in realtà non sono proprio le donne con i figli quelle meno soddisfatte dal lavoro, quelle che guadagnano meno, quelle che si possono impegnare meno nel lavoro, sono quelle che hanno mariti importanti. L'uomo di successo limita il successo della donna, ma per un fatto probabilmente genetico, biologico. La donna sente che a un certo punto in famiglia lei deve portare acqua a lui, che è l'ape regina, è il dominatore, è quello che deve aver successo. E la formula che viene suggerita alle donne che vogliono realizzarsi nel mondo del lavoro: trovarsi un marito sfigato, un marito più povero, un marito con minori ambizioni di lavoro. Perché? Perché nella coppia sarebbe comunque impossibile che a un certo punto le ambizioni professionali del marito si possano mettere in un piano secondario rispetto a quelle della moglie. Quindi sono i mariti farlocchi i migliori compagni nelle donne di successo. Questo è naturalmente una chiave che racconta il successo di molte donne, ma non soltanto da oggi, da tempi antichissimi. Una delle figure più fantastiche rappresentate nella commedia italiana di donna di successo è l'Elvira del Vedovo di Norisi, una donna terribile, una donna che sul finire degli anni 50 toccava con mano il successo edilizio, il successo speculativo, in quell'Italia che si costruiva a, naturalmente, discapito di tante altre possibilità di essere un bel paese, un paese ben costruito, un paese intelligente. Beh, la perfida Elvira, alle spalle del povero Alberto Sordi, chiamato Cretinetti, costruisce il suo impero, e lui non ne fa una giusta. E allora tu, che finanzi sempre gli altri e a me no? Eppure quando noi ci siamo sposati davanti a Padre Agostino, abbiamo deciso di dividere tutto. Io ti ho dato il mio entusiasmo, la mia speranza, la mia intelligenza, ma tu che cosa mi hai dato? 70 milioni in 5 anni? Un assegnino di 20 milioni al Cretinetti tuo. Vuoi altri soldi? No, neanche un centesimo. Posso commettere una follia? Ne hai già commesse tante, una più, una meno. Guarda che questa volta ne commetto una grossa, io apro il gas. Tanto a te cosa costa? La bolletta la pago io? Andiamo. Elvira bella. Questa qui, a te tu madre. commuove guardare nel mio tablet, appoggiato sulle ginocchia, quelli sono stralci, spezzoni della vecchia Italia che passa nelle memorie, che si soffoca, si confonde, poi riemerge. Allo stesso tempo però una lettera che mi è arrivata di una mia ascoltatrice di Viaggio in Treno sconfessa totalmente questa teoria. Non sempre la donna di successo, appoggiandosi a un uomo di minor successo, di minore ambizioni, riesce a coronare il suo sogno. No, questo è il caso esattamente opposto. Una donna che aveva davanti una carriera, aveva una soddisfazione professionale, aveva delle possibilità comunque di affermarsi, che in nome dell'amore di un uomo che in realtà sembrava di ben altre ambizioni, si è completamente rovinata. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Gentile Nicoletti, le voglio raccontare del mio viaggio durato 20 anni, se così posso dire. Un viaggio di andata e ritorno. Sono nata e cresciuta in un paese della Basilicata, ma dopo i 14 anni ho avuto la possibilità di fare il liceo a Roma, dove sono rimasta anche fino dopo la laurea in architettura. Pur con tutte le incertezze della professione, tra lavoretti vari, ho cominciato a collaborare anche per uno studio di architetti. Guadagnavo davvero poco, ma almeno avevo un lavoro. Sentimentalmente, dopo una storia lunga dai tempi dell'università, poche e insignificanti parentesi, fino a quando non ho conosciuto un ragazzo tunisino, che all'inizio, tra l'altro, non mi stava per niente simpatico. Poi, dopo un mese, è scoppiata quella cosa lì, chiamiamola passione, chiamiamolo innamoramento, non ha importanza, ci siamo messi insieme. E dopo 6 mesi, di fatto, convivevamo nel mio piccolissimo appartamentino. Il primo problema è stato quando sono scesa giù per le vacanze dai miei e ho pensato bene di presentare Tarek ai miei genitori. Non dimenticherò mai lo sguardo di mia madre al primo impatto, subito nascosto da un sorriso di circostanza. Ma ero preparata a questa tacita opposizione. Una volta tornati a Roma, a settembre, però, ho avuto la bella notizia della chiusura del mio studio a causa della crisi. Senza soldi da parte, non potevo più pagare l'affitto a Roma. Dopo aver parlato con uno zio del mio paese, che mi ha ventilato la concreta possibilità di lavorare in uno studio d'architettura lì, sono stata convinta anche da Tarek a tornare con lui nel mio paese, dove avevamo un appartamentino di proprietà. Per fargli alla breve, abbiamo fatto le valigie e ci siamo trasferiti. Ma dopo 2 mesi, quel lavoro ventilato dallo zio si è volatilizzato. Tarek ha trovato un lavoro part-time in una palestra, ma le nostre entrate riescono a malapena a farci sopravvivere. Io mi sento delusa, non so nemmeno da chi o da cosa, e anche un po' frustrata. Non voglio lamentarmi, ognuno alla fine si costruisce il proprio destino, anche se le circostanze indubbiamente non mi hanno aiutato. Mi chiedo e le chiedo, secondo lei, dove ho sbagliato e che cosa dovrei fare ora per vivere come vorrei? Certo è che è difficile dare consigli a una persona che per un palpito d'amore ha ripercorso a ritroso un centinaio circa d'anni nella storia dell'emancipazione femminile. È tornata a fare la basilisca, è tornata a fare la domestica, è tornata a fare la sorvegliata speciale della famiglia, delle zie, delle nonne baffute, con un marito che in realtà ha trovato la sua America, ha trovato un lavoro, si è perfettamente inserito in quel borgo. Per lui è un grande passo avanti, per lei è un enorme irreversibile passo indietro. O si rassegna a fare la moglie rassegnata, la moglie sottomessa, avere gli occhi addosso di tutto il paese, e continua ad andare avanti fino alla fine in questa sua terrificante, devastante storia d'amore, o pianta un giorno baracca e burattini, prende la valigia, ammesso che qualcuno la rivoglia, indietro e torna al suo studio d'architettura, lasciando lì il marito tunisino, lasciando le nonne, le zie, gli amici, le amiche del paese. No, I won't.